Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ed eccoci al secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Avevamo annunciato che avremmo parlato della TASI, definendo la giungla. Ci siamo resi conto che la giungla tuttora è abbastanza inestricabile e quindi quando avremo informazioni più chiare dal governo, dai comuni, le daremo e daremo indicazioni, faremo ragionamenti precisi. Attualmente purtroppo non è possibile per nessuno fare conti di alcun tipo, quindi andiamo a raccontare una storia, una vicenda particolare, anche un po' curiosa. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Io e te non avremmo questo problema perché abbiamo i capelli piuttosto corti e forse anche abbastanza diradati, ma è successa una vicenda ad una signora che è andata a farsi la tinta e si è ritrovata con i capelli addirittura rovinati. Cos'è successo? Sì, non avremo questo problema amico, ma forse avremo il problema di doverli colorare. Perché battute a parte è una vicenda veramente incredibile, che all'inizio quando la signora è arrivata all'ufficio dell'Adico, vista anche come era conciata, subito anche noi ci avevamo resi conto che ci doveva essere qualche problema certamente riconducibile alla piega e alla conciatura. E di fatto è successo proprio questo, che l'altro giorno è venuta appunto una socia dell'Adico in ufficio e denunciando appunto quello che era accaduto con un parrucchiere, in virtù del quale la signora aveva preso appuntamento ed era andata lì per farsi fare una rifilatina a qualche colpo di sole, e ne è venuta fuori completamente devastata, con un taglio di capelli completamente diverso e soprattutto lamentando bruciori a testa e perdite di chiomi di capelli. Scusa Carlo, quindi, era il suo parrucchiere di fiducia? Era il suo parrucchiere di fiducia, un parrucchiere che ha cercato di anche porre rimedio con la signora applicando 3 trattamenti di scolorante per cercare di risolvere quello che, insomma, il pasticcio che aveva combinato, ma che certamente ha fatto infuriare la signora, perché si trova adesso a dover andare via con una parrucca oppure dover trovare delle scamotage così in casa per cercare comunque di potersi muovere tranquillamente tra la gente, perché si sente in questo momento ridicolizzata per effetto di quello che è stato un trattamento, una richiesta di cui lei non aveva minimamente richiesto al suo parrucchiere di fiducia. Ecco, dei trattamenti per cercare di rimediare, ma immagino che le sostanze che abbia usato, per quanto fossero ovviamente autorizzate, fossero dei prodotti apposta, però chiaramente il capello, il cuoio capelluto sono zone piuttosto delicate, quindi posso pensare che ci siano stati problemi anche per questo. Grossi problemi, perché per esempio il parrucchiere, per cercare di rimediare al pasticcio, ha cercato di usare un trattamento di decolorazione. Certamente anche se è un prodotto autorizzato ne puoi fare uno, non significa che io possa usare 3 volte, diciamo in maniera grottesca, un solvente in testa, anche se magari il grado di tolleranza può essere di una volta. Ecco, questo è un po' il senso. E effettivamente la signora è stata seduta per oltre 5 ore, ha subito tutti questi trattamenti che il parrucchiere gli ha inflitto, oltre che appunto le conseguenze successive, che appunto adesso la signora ha tutta una conciatura particolare, ma soprattutto sta perdendo chiome di capelli, ciocche di capelli, e insomma diciamo che si è alquanto infuriata poi per conseguenza anche dell'atteggiamento del parrucchiere, che invece dice che oltretutto gli ha fatto pagare il servizio e che ritiene di essere nella parte del giusto, in quanto ha detto a lui, insomma, ha fatto di tutto per porre rimedio, e il lavoro e le sostanze che ha utilizzato giustifica a suo avviso, insomma, il cattivo intervento che ha perpetuato. Allora, ci sono i danni da riparare, ovviamente i capelli della signora che avranno bisogno di tempo per tornare normali, ma poi può essere chiesto anche un risarcimento in denaro. Ma sicuramente sì, certamente la quantificazione del risarcimento sarà a cura del giudice. Certo è che la signora è stata determinata a portare la vicenda domani in tribunale, perché si è tenuta veramente a parte mortificata, ma anche veramente disillusa e oltraggiata in questo, in quanto è accaduto, e sicuramente la signora ha tutti le caratteristiche e i requisiti in regola per poter portare avanti una dimostranza e ottenere anche un equo risarcimento. E sicuramente il fatto che la signora ha potuto anche arricchire di materiale fotografico tutta la sua vicenda, prima, durante e dopo di quello che è accaduto, certamente contribuirà a ottenere l'esatto risarcimento che comunque, come detto, stabilirà il giudice. Quando si va da un negoziante, come nel caso appunto del parrucchiere, per qualsiasi acquisto di fatto viene attuato un contratto tra chi compra e chi vende una prestazione oppure una merce. In questo caso qui non si tratta solo di questioni estetiche. Mi piace come mi hai tagliato i capelli e potevi farli più corti oppure con la piega da una parte piuttosto che dall'altra. Qui non è solo questione estetica, c'è anche altro nel contratto, dico. Certo, c'è un contratto che non è, ci sono delle richieste contrattuali che non sono state richieste, ma ci sono dei danni che la signora ha ricevuto anche proprio alla propria salute, perché sostanzialmente le conseguenze sono veramente visibili e chiunque si rende conto che la signora è stata conciata veramente per le feste. Certo è che questo è il tipico caso che noi abbiamo voluto portare alla luce per cogliere spunto, come anche di fronte a quello che possono essere delle condizioni contrattuali richieste e non esaudite, e certamente ci sono gli esterni per poter portare avanti le proprie dimostranze. Certo è, non ci sono condizioni scritte, ma è visibile, è chiaro che comunque c'è un pasticcio che certamente non merita veramente. Si descrive da solo, quindi questo è proprio un caso eclatante. Non è pensabile che qualcuno voglia andare da un parrucchiere per farsi rovinare la testa e uscire in quel modo là dopo che il carnevale è trascorso. Per cui ci siamo schierati dalla parte della signora e abbiamo deciso di sostenerla. Noi auguriamo alla signora che la sua chioma possa tornare quanto prima in condizioni almeno di normalità e che poi la vicenda faccia il suo corso anche con il vostro supporto. Settimana prossima altri due argomenti da affrontare insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.